Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Un buon sabato, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. I saluti vi vengono anche da Filippo Reggi in regia, Guido Scotti in redazione. Le coordinate per interagire con noi ve le ricordo, la mail nessunluogo@radio24.it, su Facebook siamo al profilo nessunluogolontano-radio24 e poi Twitter nessunluogo24. Oggi, questa sera, andiamo in Venezuela perché ieri si sono svolti i funerali di Hugo Chavez, morto martedì, quasi 15 anni al governo. Una figura controversa, tratteggiata nei modi più diversi, è stato detto rivoluzionario, populista, dittatore, forse, e non è retorica, la storia renderà giustizia alla sua figura nel suo complesso. Ora è il momento del cordoglio per i venezuelani, ma anche per i tanti cittadini dell'America del Sud. Sono qui per dare la notizia più dura e tragica che potrei trasmettere al nostro popolo. Alle 4:25 del pomeriggio di oggi, martedì 5 marzo, è morto il comandante e presidente Hugo Chavez. Così Nicolás Maduro annunciava la morte del presidente Chavez. Ieri ai funerali dell'Accademia Militare di Caracas erano presenti 30 capi di Stato, fra cui l'iraniano Ahmadinejad, c'era Raul Castro da Cuba, c'era Evo Morales dalla Bolivia, ma anche Lukashenko dalla Bielorussia. La domanda che tutti si fanno è cosa accadrà ora nel paese. Vi saranno nuove elezioni presidenziali entro 30 giorni, ma per il momento il vicepresidente Maduro, appunto, assicurerà la transizione. Prima di tratteggiare Hugo Chavez è utile fotografare il paese, quel Venezuela che lui ha guidato per 14 lunghi anni. Grazie alle sue riserve di petrolio, il Venezuela è considerato l'Arabia Saudita dell'America Latina, con una produzione di oltre 2 milioni di barili di greggio al giorno. Una ricchezza che è anche una condanna. Legato a doppio filo all'oro nero e al suo andamento sui mercati, il paese ha vissuto gravi crisi economiche che hanno portato momenti di forte instabilità politica e insicurezza sociale. Il Venezuela detiene attualmente il secondo più alto tasso di criminalità del Sud America, con una media di 53 morti ammazzati ogni giorno. Alla fine del 1998, Hugo Chavez, un ex ufficiale dell'esercito, vince le elezioni presidenziali. Da questo momento la storia del Venezuela è la storia del suo presidente. Chavez prende nettamente le distanze dagli Stati Uniti, considerati uno stato imperialista, e si propone come un nuovo Simón Bolívar, un liberatore dell'America Latina dalla tirannia straniera. Grazie alle entrate dovute all'aumento dei prezzi del petrolio, Chavez attua una serie di riforme in favore del ceto povero, che rappresenta oltre il 27% della popolazione. Da una parte nazionalizza le principali compagnie petrolifere e dall'altra propone l'abolizione del latifondo e la confisca dei terreni, che vede quindi contrapporsi i proprietari terrieri ai contadini. Tra il 2002 e il 2004 una serie di violenti scioperi indetti dai sindacati fa traballare la Repubblica Socialista, ma Chavez riesce a domare il dissenso nonostante la spaccatura sempre più netta della società venezuelana. In politica estera il presidente si dimostra altrettanto determinato, visita l'Iraq, rifornisce i paesi limitrofi di petrolio a prezzi competitivi, viene accusato di offrire asilo ai terroristi delle FARC ricercati dal governo colombiano, intrattiene scambi amichevoli con alcuni tra gli ultimi regimi dittatoriali al mondo, tra cui Cuba e Bielorussia, e rinforza i rapporti con la Russia e l'Iran. Nel 2007 il governo decreta l'oscuramento dell'emittente televisiva RCTV, rea di aver criticato il presidente. Migliaia di persone si radunano nuovamente in piazza per protestare contro il governo. Il dissenso nei confronti del chavismo e della sua politica economica, fondata esclusivamente sul petrolio, si compatta attorno al partito d'opposizione Primero Justicia. Nel 2011 Chavez inizia una terapia per combattere un cancro che lo costringe a lunghi periodi nella Cuba di Raul Castro, con cui il presidente ha stabilito un patto di reciproco scambio, petrolio in cambio di cure mediche. L'ultimo ricovero risale all'11 dicembre scorso, quando Chavez viene operato proprio a L'Avana per la quarta volta. Il 18 febbraio di quest'anno rientra in Venezuela e si ricovera presso l'ospedale militare di Caracas, fino a martedì scorso. Chi era Hugo Chavez? Un ritratto con più luci o più ombre? Partiamo decisamente dalle luci, perché così lo tratteggia un giornalista che quell'America Latina la conosce molto bene, l'ha attraversata in lungo e in largo. E a Gianni Minà abbiamo chiesto chi era Hugo Chavez. Chavez era il figlio di una famiglia numerosa, i genitori erano insegnanti di campo, come dicono loro, cioè di campagna, che fu mandato all'Accademia Militare perché era un modo per sbarcare la vita, poteva fare solo il soldato. Lui faceva parte di quel gruppo di militari che avevano deciso che il Venezuela non poteva andare più avanti, questo se ti parlo negli anni 90, nelle condizioni in cui era, dove due uomini politici, Carlos Andrés Pérez e Calderas, uno socialista o pseudo-socialista e l'altro democristiano o pseudo-democristiano, si scambiavano il potere ogni 4 anni fra di loro e agivano anche in un modo abbastanza discutibile. Ricordiamoci il Caracasso alla fine appunto degli anni 90, quando Carlos Andrés Pérez dette l'ordine di sparare su una manifestazione di piazza contro le solite ricette del Fondo Monetario e della Banca Mondiale, fece 1000 morti e una pagina è rimasta col nome di Caracas. Cioè, questa era la democrazia che c'era in Venezuela quando tentò per la prima volta il colpo di Stato proprio Chavez, non riuscì, fu imprigionato per 2 anni, poi ci fu una legge che lo liberò, lui si riimpegnò in politica e vinse le elezioni, mi pare, del 98. E da lì comincia la sua avventura, che lo ha visto 16 volte vincitore in elezioni o in referendum, quindi non capisco la disonestà intellettuale di chi lo chiamava dittatore, ma evidentemente quando comandano gli Stati Uniti bisogna eseguire. Questa è l'educazione sentimentale del giovane Chavez, secondo Gianni Minà. Un Chavez che è stato tratteggiato soprattutto dai media statunitensi in maniera molto netta, come ha raccontato molto bene il regista Oliver Stone in South of the Border. Uno dei peggiori dittatori del mondo, Hugo Chavez. Il presidente venezuelano è diventato più pericoloso per gli Stati Uniti di quanto sia mai stato Fidel Castro. Si dice che la ExxonMobil sia stata rubata dal presidente venezuelano Hugo Chavez. L'uomo forte dell'America Latina. È un clown assassino, ecco cos'è lui nella America Latina di oggi. Hugo Chavez è un dittatore. E allora la domanda nasce spontanea. Chi era Hugo Chavez? Era più un sognatore, un populista, un dittatore o forse un rivoluzionario? Era un rivoluzionario, nella migliore interpretazione di questa parola, perché tanti si dicono rivoluzionari, poi sono niente. La pelle dell'America Latina è cambiata in questi ultimi 10 anni in modo totale, ma non solo per quanto riguarda diciamo così gli equilibri del continente politici, anche per quello che ha rappresentato, per come il Venezuela di Chavez ha trascinato un continente insieme al Brasile di Lula e poi a poco con gli altri capi di Stato come Correa in Ecuador, Evo Morales in Bolivia, cioè gli stati indigeni che recuperano il loro diritto di vivere, che ancora vivevano come se fossero nel Medioevo. E certo tutto questo non gli viene riconosciuto da un mondo neoliberale che fa i disastri che ha fatto in questi ultimi 2 anni. È impossibile che lo accettino. Cioè noi continuiamo a dire quando le cose vanno male forse ora ci viene in aiuto il Fondo Monetario. Se fossimo saggi scapperemmo, il Fondo Monetario dovunque è intervenuto ha fatto tragedie, però non si sa perché si continua a dire ora ci aiuta il Fondo Monetario, ci inguaia il Fondo Monetario. Secondo te Chavez è stato il motore di questa nuova America Latina? No, sono stati almeno in due, lui e Lula. Lula che ha poi passato la presidenza del governo a Dilma Rousseff, anche questo molto moderno, una donna che è alla testa di un paese di 200 milioni di abitanti. Poi si sono accodati in tanti, appunto Evo Morales, Correa, due presidenti uruguayani, cioè ci sono ormai almeno 8-9 paesi che hanno scelto la sinistra o il centro-sinistra. I giornali nostri non ne fanno cenno, non lo vogliono capire perché questo è scomodo, ma esiste ancora un mondo di sinistra, anche se noi, se dopo il fallimento dell'idea di sinistra in Italia, pensiamo che sia una realtà superata. Non è così, perché l'America Latina era reduce dalle tragedie causate dall'operazione Condor, 40.000 desaparecidos in Argentina, uguale in Guatemala. Una politica voluta da Nixon e messa in benedetta, possiamo dire, da Kissinger. Quindi l'America Latina usciva da questo inferno e ha scelto politiche sociali, e questo è il suo peccato, per quello che è stato criminalizzato Chavez. Però poi la storia non perdona. E in estrema sintesi telegrafica, ed è l'ultima domanda, il Centro America e il Sud America in generale è destinato a giocare un ruolo sempre più importante, e Chavez è stato tra i motori di questo nuovo blocco che oramai è consolidato e si è affermato? Credo proprio di sì. Negare la sua lungimiranza significa essere disonesti. Chavez con Lula, invece di litigare, che come tutti pensavano avrebbero fatto, hanno messo insieme un'America Latina che sta cambiando pelle, hanno aiutato le nazioni più povere o le nazioni con meno risorse. Voi sapete, i medici cubani e i maestri cubani sono andati in Venezuela in cambio di petrolio. Intanto che un'isola dei Caraibi produca i medici per tutto il continente la dice lunga su quello che noi pensiamo sia il bene dell'umanità in futuro, se si seguono le ricette del Fondo Monetario e del Banco Mondiale. Cioè, bisognerà dare a Chavez quello che è di Chavez. Io per esempio ho qui quello che ha scritto nel suo biglietto di condoglianze l'ex presidente degli Stati Uniti Carter, Jimmy Carter. Il presidente Chavez, scrive, sarà ricordato per la sua audace ricerca di indipendenza per i paesi latinoamericani, per le sue formidabili capacità comunicative e per il rapporto che stabiliva con chi lo seguiva tanto nel suo paese come all'estero. A questi trasmetteva la speranza e fiducia nella propria capacità. Nei 14 anni del suo governo Chavez si è unito con altri leader dell'America Latina e dei Caraibi per creare nuove fonti di integrazione, e poi finisce e ha ridotto della metà la povertà del suo paese. Lo dice Jimmy Carter, presidente degli Stati Uniti d'America, qualche anno fa. Grazie a Gianni Minà per il ritratto. Nessun luogo è lontano. Ya, un nuevo día y la city se desborda. Un helicóptero en el aire anuncia enorme escola. Hombres y mujeres que de sus casas bajan. La mano obrera que pa' come trabaja. Ancora buona serata, gentili ascoltatori. La morte di Hugo Chavez e il futuro che attende il Venezuela al centro della puntata di questa sera di Nessun Luogo è Lontano. Buonasera a Maurizio Stefanini, giornalista freelance, lo potete leggere sul Foglio e su Limes fra gli altri, e fra l'altro autore di una biografia a puntate che uscì sul Foglio qualche tempo fa. Maurizio, buonasera. Buonasera. Allora, partiamo innanzitutto dal post Chavez, che è, diciamo, il capitolo che incombe. Entro 30 giorni si dovrebbe votare, di fronte molto ragionevolmente vi saranno Capriles, già battuto da Chavez peraltro nello scorso ottobre, e il vice, il delfino di Chavez, Maduro. Che cosa pensi che possa accadere? Non si sa se si voterà effettivamente entro 30 giorni, cioè, la Costituzione dice entro 30 giorni, il problema è che tecnicamente si sta già dicendo che ci vorrebbe almeno 40, d'altra parte già la Costituzione sta venendo ad interpretare una certa elasticità, perché già per esempio la Costituzione ha scritto che il vicepresidente, se prima in carica, non avrebbe potuto candidarsi, invece Maduro si sta candidando, quindi vediamo un attimo la cosa. Però è evidente, no, che in questo clima di grossa emozione ci sarà un grosso risultato a favore di Maduro. È difficile che Capriles possa recuperare, anche se Maduro ha questi problemi evidenti, no, di carisma, però sì, nell'immediato le cose evidentemente poi si vedranno un po' in futuro, entro 30 o 40 giorni al massimo credo che Capriles riuscirà arrivare al risultato che fu già eccellente, perché prese un record di voti per quella che erano stati i candidati di opposizione. Il fatto è che votò una quantità di gente record, quindi anche Chavez prese una quantità di voti record, anche se come percentuale calò. E si rischia davvero il caos, come alcuni giornali, anche italiani, hanno scritto? No, il Venezuela ha già delle condizioni di caos, per un regime in morbidizzazione rivoluzionaria permanente, ciò ovvio che crea in qualche modo un caos permanente. Poi abbiamo queste cose, il fatto per esempio che nel momento in cui c'è stata la morte di Chavez, è stata subito prima preceduta da questa sparata abbastanza clamorosa secondo il quale era stato inaugurato il cancro. Queste sono cose che creano un po' confusione, sì. Però credo che queste, tutto sommato, proprio perché c'è una certa attitudine, non credo che potrà peggiorare più, diciamo, sta venendo gestito, continuerà nell'immediato, e anche qua credo che ci sono dei problemi, potranno essere più a lungo periodo. Certo, vari giornali latinoamericani hanno detto che in qualche modo è intervenuta Dilma Rousseff proprio per tutelare un po' la situazione. Si è detto che si era visto con vari presidenti intervenuti, non solo presidenti di sinistra, ma anche presidenti, credo abbia un'area di destra, come il colombiano Juan Manuel Santos, che è particolarmente interessato perché dopo aver ristabilito buoni rapporti con Chavez, sì, grazie alla mediazione di Chavez, sta facendo il negoziato di pace, no, con le FARC a Cuba, quindi interessava. Ma anche Piñera era uno che aveva collaborato strettamente con Chavez, Piñera, che appunto lui personalmente era stato contro Pinochet, però è il leader di una coalizione che sono quasi tutti ex pinochettisti. In qualche modo si dice che appunto si stava cercando di creare un fronte regionale per evitare il caos, appunto, in qualche modo per tutelare la situazione. Il timore che c'è è quello che vi possono essere appunto dei contrasti interni al blocco chavista fra una componente militare, no, che comunque si potrebbe non digerire nel lungo termine a leadership di Maduro. E fra l'altro appunto anche questa mancanza di leadership, di carisma di Maduro, questa figura certamente più grigia rispetto a Chavez, potrebbe essere, come dire, uno dei punti critici per tratteggiare il futuro del paese. Apriamoci ai confini al di fuori del Venezuela. C'è sempre stato il grande nemico amico, poi bisognerà precisare, il diablo, diceva, no? Nel 2005 all'Assemblea dell'ONU Chavez disse: sento l'odore di zolfo. Questo tormentato rapporto con gli Stati Uniti, questa accesissima retorica, no? Contro gli USA, e poi allo stesso tempo però la vendita del petrolio, e il Venezuela è il terzo esportatore, credo al momento lo sia ancora, di petrolio verso gli Stati Uniti. Come si può valutare questa politica fatta sui due binari? Da un lato il megafono e le tinte forti accese, dall'altro invece parlano gli affari. Dunque, i dati che ho visto che recentemente, secondo il Dipartimento di Energia americano, non è più il terzo ma il quarto, 906.000 barili al giorno. Comunque, il discorso è questo: il 95% delle risorse di denaro del governo venezuelano, quindi il 95% dei soldi con cui Chavez acquisiva la propria popolarità all'interno facendo le missiones e aiutava a promuovere la propria attività all'esterno, anche aiutando Cuba, mandando soldi alla Nicaragua, all'Argentina, tutti i paesi finanziando, vengono dal petrolio. Sì. Il 70% di questo 95% sono dollari americani. Quindi sì, se togliamo i soldi che gli davano gli Stati Uniti, c'erano due grandi risorse. La prima grande risorsa è quella appunto di vendere questo petrolio agli Stati Uniti e riceverne dei dollari. La seconda grande risorsa è parlare male in continuazione di chi gli dà questi soldi, un po' per farlo dimenticare, un po' perché in qualche modo è comunque una potente risorsa simbolica nella storia della vita americana, quella di prendersela con gli Stati Uniti e chi gli dà. Sì, cioè tu dici il grande nemico esterno può essere un collettore sociale anche, no? Per creare un'identità, per creare una forza. Sì, in qualche modo è una risorsa simbolica. Certo, dobbiamo ricordare anche una cosa, peraltro, che non solo c'è un po' ridotta, perché da 1.300.000 barili è scesa a 900.000 negli ultimi 10 anni, però contemporaneamente il Venezuela compra anche 200.000 barili di benzina al giorno negli Stati Uniti, perché il Venezuela ha tanto petrolio ma non riesce a raffinarlo. Certo. Maurizio, ti interrompo, stiamo nel capitolo economico e apriamo quello delle nazionalizzazioni. Ascoltami bene. Se tu non puoi, dammi la tua banca. La compro. Dimmi quanto costa la tua banca e la compro. E la nazionalizziamo una volta per tutte. Perché sono disposto, se non manterranno gli impegni, a nazionalizzare le banche. Non ho alcun problema a proposito. E lo voglio ripetere. La banca del Venezuela, rendetevi conto, l'abbiamo nazionalizzata. Il governo è il governo, Chico, e il potere che ci ha dato il popolo è per utilizzarlo in funzione dell'interesse del popolo. Niente di più. Niente di più. Insomma, il capitolo delle nazionalizzazioni è stato uno dei grossi punti di forza della politica in questi quasi 15 anni di Chavez, ma poi ci sono i contenziosi, perché è in corso uno con un gigante come la Exxon, a cui Chavez, o meglio il governo venezuelano, pagherà solo 900 milioni di dollari contro i 10 miliardi chiesti dalla compagnia petrolifera. Questa ricetta delle nazionalizzazioni gli ha attirato grandissime simpatie popolari, ma poi ci si chiede quanto sia sostenibile nel lungo periodo. Teniamo conto che comunque il discorso del Perù è un po' particolare, perché il Venezuela comunque gran parte del Perù è già gestito dalla PDVSA, quindi non come in gran parte dei paesi latinoamericani, comunque in Messico, qua c'è un problema sempre, no, di avanti e indietro, perché questi paesi da una parte vogliono mettere sotto mano, no, le risorse petrolifere, però poi possono avere problemi di tecnologia, per cui poi devono di nuovo chiedere. Adesso in Messico per esempio c'è la riforma che ha fatto il presidente, sta cercando di fare il presidente Peña Nieto per aprire un po' a investimenti, quindi cioè, in realtà non è che vediamo Cuba che cerca disperatamente il petrolio, non riesce a trovarlo e sta cercando in tutti i modi di chiamare società straniere, quindi diciamo che là più che un problema di nazionalizzazione, tenendo conto del fatto che la maggior parte del petrolio continua a essere gestito comunque dalla PDVSA, peraltro in condizioni di ci sono grosse critiche sulla corruzione, sulla mancanza di manutenzione, sulla mancanza di efficienza della PDVSA sotto il governo di Chavez. Diciamo che più che altro, più che cacciare le società multinazionali, la politica è quella di cacciarne alcune per farne venire altre che siano, sì, che possono avere condizioni migliori, offrire condizioni migliori, non so, appunto in Venezuela vengono le società russe o quelle cinesi o quelle iraniane, sì. E ci sono questi contenziosi, peraltro ci sono stati in altri paesi americani contenziosi anche più pesanti, pensiamo all'Argentina per esempio con la storia dell'IPF, quindi in questo senso. Sì, diciamo che tutto quello che accade in Venezuela fa molto più scalpore anche per la figura che era Chavez. Siamo quasi in chiusura di questo blocco di Nessun Luogo Lontano. Maurizio, le ombre del governo di Chavez non è mai riuscito a risolvere completamente il problema della violenza, ad esempio. Alcune organizzazioni umanitarie denunciano abusi, diritti umani, libertà di stampa, eccetera. Quante ombre possiamo gettare su questi 15 anni di governo di Chavez? In sintesi, una gestione tendenzialmente autoritaria che ha mantenuto la democrazia pluralista, ma restringendone la portata in vario modo. C'è il problema della violenza che non è mai stato risolto, e il Venezuela è il paese che ha più alti tassi di violenza di tutto il Sud America, ha il quinto tasso assoluto di omicidi al mondo, il dodicesimo paese di tassi relativi, è il dodicesimo paese al mondo come tassi di omicidi assoluto, quindi è una situazione. Per Venezuela ci sono più omicidi che non in Messico, per esempio, qua c'è tutta questa immagine del Messico della Colombia, ma sta peggio di Messico e Colombia, quindi non. Quindi esiste, c'è questa situazione che è gestita, e poi c'è un problema sostanziale, l'economia venezuelana non è, qua c'è anche da fare il parallelo con altri governi considerati ideologicamente vicini a Chavez, come quello di Morales in Bolivia o quello di Correa in Ecuador, che però economicamente vanno bene in questo momento. Addirittura poco tempo fa è arrivato la settimana scorsa è arrivato un ministro del governo Merkel che ha detto che l'Ecuador a Milano, ma questo è il nuovo giaguaro, la tigre dell'America Latina. Sì. Una cosa del genere il Venezuela continua a fortemente rimane in questo, ma anche perché poi Chavez ha fatto una guerra agli imprenditori considerandoli legati all'opposizione, per cui praticamente ha soffocato tutto lo spazio opposizione, ma anche soffocato le possibilità di diversificare l'economia, là tutto dipende dal petrolio, sì. Lui ridistribuisce il petrolio, quindi questo crea sicuramente, c'è tutto questo popolo che adesso lo piange, che sicuramente è gente, no, che riceve dei benefici materiali concreti da questa ridistribuzione, però il problema è che continua a essere dipendente paradossalmente appunto dal petrolio, che viene venduto a quello che è il nemico che è pure indicato come nero, quindi è una situazione piuttosto intensa, cioè c'è una certa tensione. Sì, diciamo che una delle contraddizioni o dei paradossi, se volete spingere alle estreme conseguenze questo concetto, che ha caratterizzato questi 15 anni di Chavez al potere, luci e ombre di questa figura e il futuro di un paese, come sottolineava giustamente Stefanini, molto dipendente dal petrolio, e questo sicuramente il prossimo governo dovrà con questo dovrà fare i conti. Grazie allora a Maurizio Stefanini per essere stato con noi, buona serata, buon lavoro. Arrivederci. Nessun luogo è lontano. La figura di Hugo Chavez e il futuro del Venezuela senza di lui. Questo al centro della puntata di Nessun luogo lontano. Ancora ben ritrovati, gentili ascoltatori. Allora, come promesso, in quest'ultima parte del programma vi porto in Venezuela, ma non vi porto a Caracas, bensì a Mérida. Siamo a 800 chilometri nella zona rurale del paese. Siamo con Ignazio Pollini, che è coordinatore dei progetti di un'ONG torinese che si chiama CISV e che conosce molto molto bene il paese. Ignazio, la prima domanda che volevo farti è che aria tira a Mérida e come i venezuelani lì hanno preso la notizia della morte di Chavez? Sì, la situazione qui a Mérida è assolutamente tranquilla. Sia il giorno in cui abbiamo saputo della morte, alle 4 di pomeriggio, c'è stato un momento, un paio d'ore di così un po' di emergenza, nel senso che un po' la gente è andata nei negozi a comprare, gli acquisti nervosi, come li chiamano qui, poi tutti i benzinai pieni di code, eccetera, ma dopo poche ore si è calmato assolutamente tutto. Ieri e oggi, giorno di vacanza, anche perché hanno dichiarato il lutto nazionale, quindi è tutto chiuso, tranquillità assoluta, almeno qui a Mérida. Ecco, c'è stato anche lì il dispiegamento dell'esercito nelle strade? Io non ho visto niente, l'hanno annunciato probabilmente in piazza Bolivar, che sai che quando il vicepresidente Maduro ha dichiarato che tutti andassero alla piazza Bolivar per ricordare Chavez il giorno della morte, c'è stato parecchio movimento attorno alla piazza. Probabilmente lì c'era la polizia, io non sono andato perché ho raccolto i bambini in giro a casa, però assolutamente non si vede nessuno, almeno qui a Mérida assolutamente tranquillo. Ecco, dopo quasi 15 anni al potere è doveroso tracciare un bilancio, insomma, di questi anni di governo di Chavez? Sì, ci vorrebbero qualche ora, no? Tempo per raccontare tutto, però fondamentalmente la posizione è che grossi obiettivi sociali raggiunti in tutti questi anni di sforzo, di progetti sociali, soprattutto nell'area di educazione, nell'area della sanità, nell'area sportiva, della edilizia popolare, hanno costruito tantissime case, quindi tutti i progetti sociali hanno avuto un grossissimo impatto e forse la cosa più importante che si può ricordare in questo periodo. Lelo e tutto il grossissimo lavoro che ha fatto Chavez a livello latinoamericano, gli accordi, l'UNASUR, eccetera, tutti gli accordi tra i paesi latinoamericani, contro poi gli accordi ufficiali con gli Stati Uniti, il Messico, l'ALBA, eccetera, tutti questi accordi hanno fatto una grossissima differenza rispetto al periodo prima di Chavez. Quindi grossi progetti sociali internamente e grossi avvicinamenti tra i paesi, tra le nazioni, Brasile, Argentina, Uruguay, eccetera. Soprattutto queste sono le cose che credo io hanno avuto maggiore impatto in questo periodo presidenziale. Grossi, grossi problemi sono ancora lì, il grosso problema del Venezuela è che non produce nulla, quindi non c'è industria se non l'industria petrolifera, non c'è un'industria agraria per cui non si produce molto poco, si importa ancora tutto, quindi questa è stata era la grossa sfida che Chavez stava cominciando a affrontare, ma è una sfida di periodo medio-lungo, perché è un paese che non produce e vive solo del prodotto del petrolio, è sempre a grosso rischio dal punto di vista economico e dal punto di vista anche culturale, perché mentalmente tutti sono centrati sull'idea che il petrolio è l'unica cosa che ci dà da mangiare, però il petrolio non si mangia, quindi bisogna per forza importare continuamente da molti altri paesi materie prime per l'agricoltura e anche della cosa dell'industria, perché qualsiasi ricambio di auto te lo devi comprare per forza da fuori, qui non si produce niente. Se dovessimo tratteggiare le ombre, oltre a questa diciamo mancata presa in carico di questa sfida economica, i detrattori di Chavez sottolineano il mancato rispetto dei diritti umani in alcuni casi, la repressione sull'opposizione, sulla libertà di stampa. Da questo punto di vista, cosa puoi dirci? Ma io sono molto perplesso quando sento queste osservazioni, soprattutto sui diritti umani. Io lavoro a CIS di Torino, abbiamo una sede, un ufficio locale qui a Merida, lavoriamo da 10 anni sul tema dei diritti umani e sinceramente il rispetto dei diritti umani che io ho visto in questi 10 anni da quando c'è Chavez è migliorato moltissimo rispetto a quello che c'era prima. Io sono qui da prima, lavorando in altri progetti di cooperazione negli anni 80, le violazioni lì erano molto più gravi di quelle che vedo oggi. La libertà di stampa, i giornali di opposizione sono quasi tutti, praticamente qui non puoi comprare un giornale che non sia di opposizione, eppure continuano a essere pubblicati e sì, possono dire tutto quello che vogliono. È vero che ci sono dei giornalisti che sono sotto giudizio, ci sono state delle, però sono cose minime rispetto al, diciamo, all'80% della stampa che circola, che in questo caso è ancora completamente all'opposizione. I 3 giornali più importanti a livello nazionale sono completamente dell'opposizione e continuano a dire tutti i giorni quello che vogliono. Quindi questa critica che viene fatta a livello internazionale io sinceramente non la vedo, non sono esperto di giornalismo, per cui però sì che vediamo che i diritti umani vengono rispettati. Secondo te che cosa può cambiare adesso? È vero che è un po' prematuro, nel senso che entro un mese ci dovrebbero essere nuove elezioni, molto ragionevolmente si troveranno di fronte Capriles e Maduro, quindi Maduro, il vicepresidente e il grande antagonista delle elezioni di ottobre. Secondo te quanto la morte di Chavez può ridare linfa al suo vice, o quanto invece può, come dire, togliere nerbo e far esaurire un po' quella spinta, no, del chavismo, e quindi ridare corpo invece a un'opposizione che era stata sconfitta ad ottobre? Beh, oddio, la morte di Chavez è una spinta a raggruppare e a rendere più forte quelli che sono del partito, del governo. È un po' diventa il martire del partito o il leader che è morto, che quindi raggruppa ancora di più. Io ho dei grossi dubbi che Maduro abbia le stesse capacità e la stessa leadership che aveva Chavez, sia come persona, sia come progettualità politica, eccetera. Quindi io sono molto perplesso che lui sia il candidato che riesca a raggruppare. Ci sono altre persone che sono molto brave, molto in gamba, che hanno una leadership forte, che però Chavez non aveva fatto emergere a suo tempo. Lui ha designato Maduro perché è il suo delfino, è il suo, per dirlo con una brutta parola, per il suo burattino principale, nel senso che Maduro faceva sempre esclusivamente quello che diceva Chavez. E quindi una persona con poca autonomia dal punto di vista di scelta politica. Quindi a me sembra che la scelta di Maduro non sia molto opportuna per il partito di governo attuale. L'opposizione avrà dei grossi problemi perché rilanciare Capriles, che ha perso le elezioni pochi mesi fa, non so fino a che punto. Io non ho sentito ancora l'opposizione che abbia detto che lui è il candidato ufficiale. Però purtroppo non ci sono altri leader della stessa stoffa, quindi bisognerà aspettare almeno 10-15 giorni per capire che equilibri troveranno. Detto, io nel chavismo avrei messo altri leader, perché davvero Maduro, almeno questo, ripeto, è una mia osservazione personale, non lo vedo come futuro presidente. Lui era un buon ministro, nel senso che eseguiva quello che diceva il presidente, però lui che fosse alla testa di tutto non ce lo vedo, e quindi indebolisce, dal mio punto di vista, indebolisce un po' il movimento chavista. Che nomi ti verrebbero in mente come nuovi Chavez? Non è facile. Beh, il ministro dell'industria petrolifera Ramirez ha una grossa stoffa, grosse capacità. L'attuale segretario Lee Rodriguez, che è segretario di UNASUR, sono persone che hanno delle grosse capacità, anche autonome, e comunque con una progettualità molto simile a quella di Chavez, ma con una loro autonomia, se vuoi. Però non so cosa decideranno adesso. Si aprirà una battaglia molto forte all'interno del partito per vedere chi prende in mano. Anche se Chavez, però, lui l'ha detto chiaro. In dicembre, quando lui si è ricoverato per l'ultima volta a Cuba, per l'ultimo intervento, ha detto chiaramente che il suo successore sarebbe stato Maduro. Quindi probabilmente seguiranno la linea data direttamente da Chavez prima di morire. E grazie alla voce di Ignazio Pollini del CISV da Mérida, del Venezuela, abbiamo tentato di comporre il puzzle, questo grande enigma. Ancora c'è il punto di domanda su Hugo Chavez, perché è una figura controversa e, ripeto, l'ho detto inizio trasmissione, forse la storia ci renderà, come dire, un ritratto più oggettivo e più neutro. Non mi resta che ringraziare Guido Scotti in redazione, Filippo Reggi in regia, voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è per sabato prossimo alle ore 19:15. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.